lo stivale del rock. Questa settimana, i Clacson. Salve a tutti gli ascoltatori di Spazio Radio, sono Andrea dei Clacson di Roma. Noi siamo stati una delle prime punk band degli anni 80, ancora in attività tra l'altro, praticamente quasi in formazione ancora originale. In questi anni abbiamo prodotto diversi album, ecco gli ultimi due in questi ultimi tre anni sono Tutti contro tutti con 10 canzoni Clacson, l'album di questo anno, gennaio 2025, Verime ignoranti, che è un album un po' particolare che trae spunto dalle poesie di un nostro caro amico Sergio Angelico Boyd Mancuso, ex cantante dei Fan, un'altra band dei primi anni 80 di Roma. E dalle sue poesie sono state fatte 7 canzoni che vedono poi l'interpretazione di diversi ospiti della scena, diciamo, musicale punk oi romana. Nella fattispecie io sono Andrea al basso e alla voce, abbiamo poi Lorenzo alla chitarra e voce, i due membri fondatori dei primi Clacson, un trio degli anni 80. Durante il corso degli anni, negli anni 2000, il periodo di vita agra prodotto dalla Pietroforte Record in Euskadi, si aggiunsero e suonano ancora tuttora con noi Roberto Moschetti alla chitarra e Luca Mariani alla batteria. I pezzi che andiamo ad ascoltare, primo pezzo è tratto proprio dall'ultimo album Le rime ignoranti e la canzone si chiama Gli anni passati. Questa canzone è interpretata alla voce da Lorenzo Canevacci, chitarrista e cantante dei Wendy, ex Bloody Riot. La seconda canzone invece è un nostro classico, una nostra vecchia hit dall'album 100 celle City Rockers del 96 e si chiama Libero. Questa canzone fa parte della colonna sonora della serie Netflix di Zero Calcare, Strappare lunghi bordi. Ok, detto questo, buon ascolto a tutti voi, grazie a questo spazio per il stivale del rock. Ciao, grazie a tutti. Clacson, l'anni passati. Vengono dei ripiri, ritorni a ieri, pensi a com'eri, poche le gioie, tanti dolori, la vita passata racconta una storia davvero, una storia vissuta in bianco e nero. Ma rigira e guarda avanti, saranno pochi, saranno tanti. Nuove credenze, mutamenti, altre tendenze, il feroce tormento ne prova sta cedendo. Ma rigira e guarda avanti, saranno pochi, saranno tanti. Nuove credenze, mutamenti, altre tendenze, il feroce tormento ne prova sta cedendo. Ma cresce la malinconia del tempo che ormai se n'è andato via, se n'è andato via. La vita passata racconta una storia davvero, una storia vissuta in bianco e nero. Ma rigira e guardo avanti, saranno pochi, saranno tanti. Nuove credenze, mutamenti, altre tendenze, il feroce tormento ne prova a starci dentro. Ma rigira e guardo avanti, saranno pochi, saranno tanti. Nuove credenze, mutamenti, altre tendenze, il feroce tormento ne prova a starci dentro. Che ormai se n'è andato via, se n'è andato via. Non sia quel che sia, ma cresce la malinconia del tempo che ormai se n'è andato via, se n'è andato via. Clacson, libero. Sono io che sono uscito di corsa, sbattendo dietro la porta, la mia anima stanca, ho messo piatto dietro un angolo vicino al mercato ed una lacrima mi ha caricato ed aspettato che la notte arrivasse e che la luna illuminasse un muro. Abbiamo trasmesso lo stivale del rock. Questa settimana, i Clacson.